dei, che pensi far? Ne d'oro riconoscer chi sia, chi teco favellar, finora ho visto. Fermati, a morir vai, che quello è Orlando. Alla gloria mi togli, ma ti servo l'affetto. Ubbidir devo, forza e partir, tria che qui torni Orlando. Val fonte degli amori, ti ve m'attendi. E del mio amor un nuovo peor prendi. O Angelica, o Medoro, il vostro amore in danno ormai si cela, perché il darsi la mano ed abbracciarsi è qualche cosa più di parentela. È tempo ormai di non tener più a scuso che veduro è il mio sposo. Con lui mi parto già, grazie ti rendo del cortese ricetto che dato mai. Prendi e conserva questa grata memoria d'un sincero affetto. Speravo gioie più care aver dal tuo midore.